Tutte le sere così, tutte le sere. L'uomo del sud, tutte le sere così, tutte le sere. E pensare che era una ragazzina così dolce, così onesta, così remissiva. Bastava che un uomo le rivolgesse la parola che lei subito arrossecava. Come un pomodoro diventava. Persino quando parlava con suo padre, arrossiva. Perché del maschio lei aveva rispetto, timore. Ne sentiva sempre e comunque la superiorità. Tanto che quando l'ho conosciuta mi sono detto, Peppi, è la moglie che fa per te. Perché io in amore sono passionale, esclusivista, geloso, come un autentico uomo del sud. Nella nostra famiglia quello che ha sempre contato più di tutto è stato l'onore. La femmina che sposiamo deve essere nostra, è solo nostra, anima e corpo. E non possiamo ammettere che nessun altro possa averla sfiorata, nemmeno con un dito, eh? Nemmeno col pensiero. La femmina per noi è una proprietà esclusiva, è il nostro onore e siamo pronti a difenderlo anche con il delitto. Siamo nati gelosi perché siamo nati maschi. Alcuni nascono poeti, altri nascono ladri, noi siamo nati gelosi. Noi del sud siamo la quintessenza del maschio. Oggi dicono che in ogni individuo, anche nel più sano, c'è una parte di ormoni maschili e una parte di ormoni femminili. Fido chiunque a trovare nel mio organismo anche uno solo ormone femminile. Se uno di questi ormoni femminili fosse capitato per caso dentro di me, non so che fine avrebbe fatto in mezzo a quell'esercito di ormoni maschili che tengo dentro. Ormoni maschili. Io soltanto ormoni maschili perché io sono maschio e solo maschio. Dalle radici dei capelli alle unghie dei piedi. Uomo completo, uomo al 100%, garantito.